Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare. Mentre dico che ti avrò, che ti avrò. La storia che raccontiamo oggi è misteriosa, complessa e anche un po' torbida. Ha a che fare con gli Stati Uniti, con le lotte sindacali dei camionisti, col delitto Kennedy e con un mistero profondamente radicato nella cultura popolare americana, perché è un mistero sul quale ancora oggi non si è riusciti a fare luce. È la scomparsa nel nulla di Jimmy Hoffa, leader sindacale alleato di mafiosi, nemico giurato di Bob e John Kennedy. Il corpo di Jimmy Hoffa è stato scoperto in un campo oggi vicino ad un centro di addestramento per cani a Buffalo, New York. Bruce Nolan è arrivato per primo sul posto. Grazie, Jane. Come potete vedere, il cadavere viene delicatamente esumato e verrà trasportato in un istituto medico legale dove il DNA potrà confermarne l'identità. Il che tuttavia è una pura formalità a questo punto. Il corpo, per una bizzarra coincidenza, era stato sepolto con l'atto di nascita. È un'orto panoramica completa. Eh sì, ma questo è un film comico, perché nella cultura americana il mistero di Jimmy Hoffa è il mistero per antonomasia. Questo era una settimana da Dio, col protagonista che fa lo scoop degli scoop, trovando proprio il cadavere del sindacalista americano. Ma il cadavere non è mai stato trovato e noi partiamo invece dalla sua nascita, il giorno di San Valentino del 1913, a Brasil, che è una poverissima città mineraria nello stato dell'Indiana, a 90 km da Indianapolis. Lì nasce James Riddle Hoffa, terzo di quattro figli di una famiglia molto povera. Il padre John discende da olandesi immigrati in Pennsylvania dall'inizio dell'Ottocento, lavora nelle miniere di carbone. La madre Viola è di origine irlandese, una famiglia con pochissime possibilità economiche, dove un concetto è chiaro a tutti: il valore del lavorare duro senza lamentare. Il giovane Jimmy è molto legato a quel padre che si spezza la schiena per garantire la serenità che può garantire alla sua famiglia. Sentiamo per esempio un'amica di famiglia. Amava molto suo padre e lo rispettava perché riusciva a tenere la famiglia al sicuro. Appartenevano alla classe sociale più bassa e non avevano molto. Per questo impararono molto presto che nella vita avrebbero dovuto lavorare, lavorare duro. Ma è solo l'inizio. Quando Jimmy ha solo 7 anni e il padre muore a causa di una malattia ai polmoni provocata dalle terribili condizioni di lavoro della miniera, e nella memoria di Jimmy rimarrà sempre il ricordo indelebile di questo padre che ha lavorato nel senso letterale del termine fino alla morte. La madre fa di tutto per tenere la famiglia in piedi, è costretta a fare più di un lavoro contemporaneamente, lava e stira i panni per le altre famiglie della piccola città. Jimmy e un fratello più grande, nonostante la giovanissima età, provano a dare una mano, fanno i lustrascarpe, fanno le consegne per la madre. E nel 1924 Viola decide di trasferire la famiglia in una città più grande. Vanno a Detroit. Ritiene di dare a se stessa e ai figli maggiori possibilità di lavoro. Trova impiego in una lavanderia, anche in una fabbrica di componenti per automobili. Lavora 16 ore al giorno per racimolare il denaro necessario per vivere. Learning. vita nella città non è facile. Jimmy è un ragazzo basso, tarchiato, con un carattere deciso, non ha paura di niente e se c'è da fare a botte non si tira indietro, impara in fretta a difendersi dagli altri ragazzi del quartiere. A 12 anni lavora già come pelapatate per aiutare economicamente la madre. Nel fine settimana fa le consegne per una drogheria. A 14 anni è costretto a lasciare definitivamente la scuola per lavorare a tempo pieno. Nel frattempo è arrivata la grande depressione del 29 e diventa sempre più difficile trovare un lavoro e tutti sono disposti a tutto. Le aziende lo sanno, ne approfittano. Succede anche dove lavora Hoffa. A 16 anni ha un impiego nella compagnia di generi alimentari Kroger. Carica i camion con i prodotti dell'azienda, viene pagato solo per le ore effettivamente impiegate in questa attività e tra un carico e l'altro c'è solo da aspettare il carico successivo senza compenso. Le condizioni di lavoro sono terribili e i lavoratori non hanno alcuna tutela, nessun diritto, come ricordano due vecchi amici di Jimmy Hoffa. Tutti i lavoratori formavano una specie di gruppo di depressi. Non avevano soldi, erano tutti a pezzi. Non avevano davvero niente. Non avevano nessuno che li proteggesse sul lavoro, nessun diritto. Quindi decisero di organizzarsi in un sindacato locale. Ma Hoffa non è il tipo da deprimersi, ha in mente il ricordo di quel padre che ha lavorato tutta la vita senza garanzie solo per morire giovane, lasciando la sua famiglia senza sostentamento. Così si impegna, è giovanissimo, si impegna nell'attività sindacale e il suo carattere lo aiuta a imporsi come leader. Sono anni in cui i datori di lavoro contrastano e spesso zittiscono con la forza le rivendicazioni sindacali. La parola che si usa è muscles, muscoli. Vengono assoldati picchiatori da sguinzagliare contro i lavoratori per ridurli a più miti consigli. Quindi nei primi anni 30 Hoffa organizza il primo sciopero della sua carriera, blocca la distribuzione di fragole fresche, le lascia nei magazzini e minacciando l'azienda di farle marcire. Insomma, è un ribelle, tiene duro. Però siccome sappiamo che in quei periodi è difficile tener testa alle aziende, lui ha bisogno di alleati. A meno di 20 anni e già deve trattare con la malavita di Detroit, perché contro i muscoli dei padroni, Jimmy schiera altri muscoli, forse più pericolosi, quelli della mafia. Mafia è legge di sangue. Mafia è legge d'onore. Leggi che spacca il cuore senza perdono, senza pietà. Il falco del gabbiano. Siamo arrivati al produttivo patto scellerato tra Jimmy Hoffa e la mafia di Detroit. E la carriera sindacale di Hoffa comincia veramente presto, perché lui è veramente giovane, è capace di lavorare a ritmi forsennati, ma è anche un giovane coraggioso, grintoso, dal carattere risoluto, come ricorda il figlio James Hoffa. Fin da giovanissimo mio padre era già una persona molto carismatica, aveva 17-18 anni e già diceva: bene, questo è ciò che faremo uno sciopero. E la grinta di questo ragazzo che sta riorganizzando la sezione locale dei Teamsters, il sindacato degli autotrasportatori, viene notata dai vertici nazionali dello stesso sindacato. Gli offrono un lavoro a tempo pieno come organizzatore sindacale a Detroit. Sono tempi duri, sono tempi in cui la lotta sindacale è fatta con violenza da entrambe le parti e le grandi compagnie usano la malavita organizzata contro i lavoratori per intimidirli e per impedire scioperi, ma Jimmy ha la sua personale ricetta, perché cerca altre fonti di malavita, nuovi canali di comunicazione proprio con Cosa Nostra. Stringe i patti con i mafiosi locali e piano piano con i pezzi grossi nelle città principali americane, da Detroit a Chicago fino al New Jersey. Il dinamismo di Hoffa, il suo procedere senza scrupoli, imprimono una impennata alla crescita del sindacato. Nel 1933 gli iscritti sono già 75.000 e tre anni dopo siamo a 170.000. Negli anni 50 sfonderà la quota di 1 milione di iscritti. Nel 1936 c'è un gruppo di lavoratrici di una catena di lavanderie che chiede a Hoffa una mano per organizzare uno sciopero. Tra loro c'è una 17enne che Jimmy nota subito per i modi gentili ed educati. È Josephine Postiak. Hoffa la sposerà quello stesso anno senza l'approvazione di entrambe le famiglie. Nel 1939 la coppia compra una casa modesta nella zona nord-ovest di Detroit per poco meno di $7,000. È una relazione che durerà per tutta la vita, nonostante le profonde diversità etniche e di carattere tra i due, come ricorda la figlia Barbara Hahn. I miei erano molto diversi. Mio padre non beveva e non aveva mai fumato in vita sua, mentre a lei piaceva divertirsi, bere un cocktail ogni tanto e fare festa. A lui invece non piacevano molto le feste. La chiamava il sergente, perché era l'unica che potesse comandarlo a bacchetta. E così, quando tornava a casa, lei gli diceva: bisogna fare questo e quello, e lui era sempre contento di esaudire le sue richieste. Sono gli anni della grande crescita del sindacato degli autotrasportatori e Jimmy contribuisce a questa crescita da presidente della sezione 299 di Detroit, perché lui ci sa fare soprattutto con i lavoratori, come ricorda un amico di quei tempi, Joe Conow. Mi chiamo Hoffa. Piacere, sono Jimmy. Ehi, so chi sei. Diceva cose del genere, molti li chiamava per nome. Faceva una grande impressione per questo. Perché lui ha una grande forza, sa stare in prima linea con i lavoratori anche nei momenti più difficili, quando il confronto non è su un tavolo negoziale ma è per strada, scontri, botte e anche qualche colpo di pistola. E Jimmy Hoffa non chiede ai lavoratori cose che non sia disposto a fare lui stesso. Sentiamo ancora la figlia Barbara Hahn. Mia madre raccontava sempre di quando papà tornava a casa tutto pieno di sangue, e lei lo puliva, lo disinfettava e gli metteva addosso una camicia pulita, dicendogli di non tornare fuori, ma lui tornava fuori subito. Però la famiglia è una parte importante della sua vita, anche se uno stacanovista è molto legato alla moglie e ai figli, cerca di passare con loro tutto il tempo che può. È un buon padre, come emerge dal ricordo dei due figli, James e Barbara Hahn. Quando tornava a casa era sempre qualcosa di speciale. Per quanto fosse occupato con mille impegni, trovava sempre il tempo per portarci a pesca o a caccia, per stare con noi in modo speciale. Mio padre ricordava bene la Grande Depressione e noi crescemmo con quell'eredità. E così, mentre le cose andavano sempre meglio e noi diventavamo più ricchi, lui non permise mai che ci dimenticassimo. A volte, nel bel mezzo di un momento particolarmente meraviglioso, quando eravamo tutti felici, lui ci diceva: «Mi chiedo cosa stia facendo la gente povera». Ci diceva questo: «Mi raccomando, apprezzate ciò che già avete». Quindi un padre che vuole che i figli crescano con principi sani. Tra l'altro il figlio ancora oggi è presidente dei Teamsters, però sa che per raggiungere la vetta a volte bisogna stringere un patto col diavolo, soprattutto in quegli anni, negli anni 50, che sono il periodo in cui Hoffa consolida il proprio potere, legando però il suo destino a doppio filo con i boss di Cosa Nostra, quelli che l'America imparerà presto a conoscere come Russell Buffalo Farfalino, Sam Giancana, Santo Trafficante sono solo alcuni nomi, ma noi andiamo avanti tra poco con la storia di Jimmy Hoffa. Stiamo raccontando la storia di Jimmy Hoffa, un vero e proprio self-made man, da ragazzo povero che arriva a Detroit orfano e con una madre che fa qualsiasi tipo di lavoro per mantenerlo, fino al presidente del sindacato degli autotrasportatori, quindi uno degli uomini più potenti all'interno dei conflitti sociali dell'America di quegli anni. Il sindacato dei Teamsters, gli autotrasportatori, diventa un colosso grazie a Jimmy Hoffa, ma lui per farlo ha dovuto vendere la propria anima a Cosa Nostra, alla criminalità organizzata. Nemico giurato dei Kennedy, è forse coinvolto anche nell'assassino di John Fitzgerald Kennedy ed è scomparso nel nulla nel 1975. Ma torniamo al 1957, quando Jimmy Hoffa diventa presidente dell'Unione Trasportatori Americana. Il predecessore Dave Beck è finito in carcere per corruzione, lasciando la strada sgombra all'ambizioso Jimmy. La missione è duplice: da una parte fare crescere ancora di più l'influenza e le dimensioni dell'Unione e dall'altra incrementare il proprio potere personale, perché tra soldi e potere, ammette lo stesso Hoffa, lui non ha dubbi, sceglie il secondo. Non per me stesso. Io non ho bisogno di più potere di quanto ne abbia già. Il motivo per cui rispondo che sceglierei sempre il potere piuttosto che il denaro è perché più potere ci dà la possibilità di migliorare la nostra capacità di ottenere migliori condizioni economiche per i nostri membri. Da presidente dei Teamsters, Hoffa lavora per espandere l'Unione, per unificare, come piacerebbe alla Camusso oggi, i sindacati di categoria americani sotto un'unica sigla. Però qui, per raggiungere i suoi obiettivi, lui deve sempre più affidarsi al patto scellerato che ha stretto con la criminalità organizzata fino dai tempi dei primi scioperi, e il gioco diventa sempre più grande, sempre più rischioso, come imbarazzanti sono sempre più i suoi interlocutori, perché non più i capetti. Ora lui ha a che fare proprio con i boss, i quali deve trattare da pari a pari. Gli coprono le spalle, amplificano il suo potere, gli permettono di espandere l'influenza del sindacato anche la sua personale. L'interesse ovviamente è reciproco, perché la mafia aiuta Hoffa e fa il lavoro sporco quando intimidisce o elimina gli oppositori di altre formazioni sindacali, ma allo stesso tempo controlla l'intero mondo dei trasporti attraverso Hoffa. E non basta, Jimmy in qualità di presidente controlla la cassa, vale a dire il fondo pensioni dell'Unione. Parliamo di milioni e milioni di dollari che Hoffa utilizza anche per scopi personali, ma soprattutto che presta ai boss, e con quei soldi i capi mafia investono nell'attività più redditizia, cioè i casinò. A quel tempo Las Vegas era un posto dove milioni di fessi arrivavano ogni anno sulle loro monetine e ci lasciavano quasi un miliardo di dollari. Certo, di notte non si vedeva il deserto che circonda Las Vegas. Però è nel deserto che si risolvono un sacco di problemi della città. Avevo tutto talmente sotto controllo che mi fu dato il paradiso in terra. Mi fu dato in gestione uno dei più grandi casinò di Las Vegas, il Tangiers. Da quel solo tipo di uomini che può trovarti quel tipo di soldi. 62 milioni e 700 mila dollari. Non conosco tutti i dettagli. Questo era il film Casino di Martin Scorsese con Robert De Niro, che racconta del connubio, che è un classico, il connubio tra mafia e casino, un affare colossale per Cosa Nostra, perché vanno riciclati e reinvestiti i soldi, che diventano sempre più una fonte quasi infinita di liquidità. Però qui si parte da dei soldi che partono dalle casse dei Teamsters, grazie alla complicità di Hoffa, e questo uso spregiudicato del denaro non può non finire nel mirino del governo. Così già nel 57 Hoffa deve vedersela con la prima indagine importante a suo carico da parte di una sottocommissione del Senato presieduta da John McClellan. Per molti mesi lui riesce a cavarsela evitando incriminazioni, ma nel 1960 viene eletto presidente degli Stati Uniti John Kennedy, che avvia la più colossale lotta al crimine organizzato di tutta la storia americana, e lo fa col fratello Robert, nominato procuratore generale. Robert si è già confrontato con Jimmy Hoffa quando faceva parte della commissione McClellan, ma ha solo accumulato frustrazioni. Eh sì, perché forse è un momento in cui Hoffa è ancora più potente di lui. L'atteggiamento dei Kennedy lascia un po' spiazzati i capi di Cosa Nostra, e in particolare il boss di Chicago, Sam Giancana, perché i Kennedy avevano chiesto aiuto ai boss per le elezioni presidenziali del 60 e il patto viene dimenticato all'indomani della vittoria, e in barba a quell'accordo nel 61 Bob Kennedy inizia la sua battaglia personale contro la mafia e contro Jimmy Hoffa. Forma una squadra composta da 21 avvocati, i migliori del momento, che lavorano a tempo pieno solo per incastrare lui e gli altri boss. E i due si odiano dal profondo, e quando si parlano nelle udienze pubbliche sembra che ci sia veramente un cortocircuito. Ecco uno dei loro tanti faccia a faccia. Would you allow, as a Teamster official, a man who was a communist, who was elected by the membership? We don't have any communist in our team. Just a moment, please, that I know of. What do you mean? There's no question about Mr. Goldblatt, although there can be a question about Mr. Hoffa. There's no question about Mr. Goldblatt. Wait a minute, just a moment. Don't say anything about a question about Hoffa. There is no question about Hoffa. Don't you say that either. Don't you say that I'm a communist or even affiliated with one. You said that enough around this country, and I want the American press to know that I resent the fact that there is any inference that I'm a communist. I dreamed that I could do the job that others hadn't done. I dreamed that I was uncorrupt and fair to everyone. I dreamed I wasn't gross or base, a criminal on the take. Forse qua si creano i presupposti per quello che successe poi nel 63 a John Kennedy e nel 68 a Bob Kennedy, entrambi assassinati. Intanto Jimmy Hoffa dei Kennedy non si è mai fidato, lo ricorda nelle sue memorie Frank Sheeran, che è un personaggio chiave di questa storia, è un killer della mafia vicino al boss Russell Bufalino, grande amico dello stesso Hoffa. Sarà lui a svelare, e ne parleremo più avanti, i misteri sulla morte del sindacalista, perché Sheeran racconta che Hoffa era fortemente contrario all'appoggio della mafia alle elezioni di John Kennedy, ne aveva discusso con Sam Giancana, che non lo ascoltò, e aveva ragione Hoffa, diciamo, dal punto di vista mafioso, perché nel 61 i Kennedy dichiarano guerra alla mafia e Bob cerca di incastrare proprio Hoffa. Lui non ci sta e chiede ai boss di risolvere il problema, così i capi Santo Trafficante e Carlos Marcello ne parlano durante una riunione a New Orleans in un albergo, come ricorda lo scrittore e giornalista TJ English. Ci fu una riunione a New Orleans durante la quale Carlos Marcello disse che bisognava risolvere il problema Kennedy. Si riferiva a Bobby Kennedy, e quindi i presenti diedero per scontato che parlasse di uccidere Bobby Kennedy. Gli dissero che non era possibile, che dopo avrebbe avuto addosso il presidente degli Stati Uniti. Carlos Marcello rispose con la famosa frase: se vuoi uccidere un cane non gli tagli la coda, gli tagli la testa. e ci sono dei testimoni che raccontano che il 22 novembre del 63, quando John Kennedy viene ucciso a Dallas, Hoffa esulti alla notizia, e io un po' ci credo. L'anno dopo, nel 64, Jimmy riesce a unificare tutti i camionisti del Nord America sotto un unico contratto, che è il suo obiettivo più importante. Però la giustizia gli presenta il conto, viene condannato a 8 anni per avere cercato di corrompere alcuni giurati in un processo minore, però a questi 8 anni se ne aggiungono altri 5 per frode, per una vicenda di denaro del sindacato usato per investimenti personali e per i boss. E quindi la stella di Hoffa è in declino. Uno degli uomini più potenti d'America finisce in prigione, siamo nel 1967. Lui allora nomina un vicepresidente fedele a lui alla guida del sindacato e mantiene virtualmente la sua carica di vertice, perché dalla prigione prova a gestire ugualmente il suo potere. Però il suo vicepresidente, che si chiama Frank Fitzsimmons, lo tradisce. Eh sì, perché Fitzsimmons comincia a sottrargli la leadership con i suoi stessi metodi, perché conquista i favori della mafia attraverso i soldi del fondo pensioni. E quando Hoffa esce dal carcere graziato da Nixon, lui cerca immediatamente di riconquistare la sua posizione di potere, però scopre intanto che la grazia di Nixon è condizionata, perché è stato liberato a patto che non si candidi per la presidenza dei Teamster per altri 9 anni, cioè fino all'80, e poi scopre che nessuno lo sta aspettando per ridargli il suo ruolo, e allora lui fa il diavolo a quattro, denuncia le manovre di Nixon, di quelle stesse persone che poi peraltro saranno travolte dallo scandalo Watergate, perché insegue la poltrona da presidente in maniera ossessiva contro il consiglio di tutti, e viene sopraffatto, sembra non ascoltare i consigli dei suoi amici di un tempo, quei mafiosi che ora hanno un nuovo cavallo su cui puntare. E gli avvertimenti arrivano dal boss Russell Bufalino attraverso il killer irlandese Frank Sheeran, quello che del libro, amico di Hoffa dai tempi d'oro. Lo racconta Arthur Sloan, che è un altro autore di una documentata biografia su Jimmy Hoffa. Russ Bufalino mise in guardia Jimmy Hoffa dal tornare alla presidenza dei Teamsters, perché molte persone erano contrarie. Frank Sheeran era silenziosamente presente in tutte quelle discussioni. Su ordine di Bufalino, Sheeran ne parlò più volte con lo stesso Hoffa, anche in privato, prima di quel famoso 30 luglio 1975. Glielo disse chiaramente: «Non puoi farlo, Jim», ma lui non mollò. You can't do it, Jim. You won't live. Quel 30 luglio del 75, Hoffa esce di casa per una riunione in un vicino ristorante. Dice alla moglie di aspettarlo per il pomeriggio perché vuole fare un barbecue in famiglia, e la moglie e i figli non lo vedranno mai più. Ne denunceranno la scomparsa solo 32 ore dopo, quando la polizia troverà la macchina di Hoffa nel parcheggio del ristorante, e la sparizione di Hoffa rimarrà per decenni un mistero. L'FBI metterà sotto indagine decine di persone, ma non verrà mai trovato né lui né la verità, anche se Frank Sheeran 22 anni dopo fa delle rivelazioni che verso la verità ci possono condurre. Quel 30 luglio del 1975, racconta Sheeran, Hoffa viene invitato a un meeting con Russell Bufalino e con un altro boss, Anthony Provenzano, non so se il cognome vi dice qualcosa. È proprio l'amico Frank Sheeran, di cui Hoffa si fida ciecamente, a andarlo a prendere, e insieme vanno al luogo del presunto appuntamento. Sentiamo lo scrittore T.J. English. Arrivarono a questa casa, una casa anonima, una casa da classe media in un quartiere da classe media. Jimmy aprì la porta ed entrò nella casa. Frank Sheeran era dietro di lui. Gli puntò una pistola alla base del cranio e sparò al suo amico alla testa e uccise Jimmy Hoffa. Kills Jimmy Hoffa. E quindi Frank Sheeran, che sarebbe stato l'esecutore materiale dell'omicidio, è anche quello che rivelerà prima di morire nel 2003 che il cadavere di Jimmy Hoffa, perché il corpo, lo sapete, non è mai stato trovato, che il cadavere fu cremato così da non lasciare alcuna traccia. E c'è da dire che quella di Frank Sheeran non è l'unica versione sul mistero della morte di Jimmy Hoffa, ma è ormai riconosciuta come la più credibile, anche se tecnicamente il caso è ancora irrisolto. E nel ringraziare Luigi Speciale e Anita Panizza Ariotti, io vi chiedo di mandarci altri commenti su storie che voi ritenete forti e incredibili, come quella di Jimmy Hoffa che abbiamo appena raccontato. Scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it, oppure visitate la nostra pagina, oppure venite a trovarmi e a trovarci nei nostri social. Insomma, se volete, ci trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.